YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Eccoci, anzi rieccoci, la terza ora del sabato del villaggio. Io lo dico sempre che la terza ora poi si trasforma in RadioTube, perché la squadra che vince non si cambia, e quindi la nostra trasmissione che è andata così bene per un anno non si poteva abbandonare. Noi la proseguiamo in un orario un po' diverso, perché qualcuno la scorsa settimana ci ha twittato: ma come, non vi troviamo più alle 18? Beh, mio padre, no? Siamo... mio padre mi ha scritto: com'è la frequenza? E gli ho detto: era un'ora fa. No, allora gli hai detto: scarica il podcast. No, perché ti ricordi che aveva telefonato durante... Sì. Sì, allora poi gli ho detto: scarica il podcast sul sito di Radio24.it. Bravo. Ecco, Radio invece Tube, il nostro account, appuntamento con la trasmissione di Radio 24, che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV, un sacco di riflessioni questa settimana, i nostri account. Ma com'è che non hai ancora iniziato i bilanci? Sono contento, io li odio i bilanci di fine anno. Invece la scaletta... qualcosa di bilancio ci sarà, allora, nella scaletta sorpresa di questa settimana qualcosa ci sarà. Allora, gli account sono @MartaCagnola oppure @DiBellasio. L'hashtag è Radio Tube, quello di quest'ora, l'altro è quello dell'Italia dei Valori. No, cioè, no, il sabato del villaggio, ISDV, cancelletto. Niente partiti politici. Però parliamo di politica. Sì. Questa settimana tu non hai seguito tanto. Sei tu, tu eri in ritiro spirituale, sì, sei stato tra le tue colline. Sì, così. Stupendo. Quindi non hai seguito le prodezze di Salvini dopo le foto di cui avevamo parlato la scorsa settimana. Cosa può aver fatto? Diciamo, dopo quelle foto, si direttamente è nudo. Ah no, no, si è rivestito. Ah, quindi parlare di politica mi vuoi far parlare di look. Ho già capito. Beh, intanto è stato di attualità, perché a Di Martedì Matteo Salvini si è presentato vestito volta e non in nudo come nelle foto della scorsa settimana. Aveva una delle sue felpe famose e lui dice: io sostengo il Made in Italy. Cosa c'era scritto sulla felpa? Sentiamo cosa ha fatto Floris, ecco qua, Di Martedì. Sono Made in Italy, io promuovo il Made in Italy, no, almeno made in questo. No, Merate l'abbiamo fatta la felpa. Ma vediamo un attimo se Made in Italy è davvero. Aspetta. Fatta in Cina. Mi spoglio se vuoi, No, hai già basta. Fatto una... No, basta. Per cortesia, basta. Rimango a torso nudo se vuoi, però non è un bello spettacolo. Allora, io vedo che me la tolgo. No, il marchio è francese, mi pare. Però siamo in Europa. Quale Europa vale? C'era un po' di confusione geografica, allora. Pure politica. Perché dici politica anche? Beh, scusa, una volta era Made in Padania, poi siamo passati a Made in Italy, già un leader leghista che dice è già poi un progresso. Anche l'Europa. Adesso apre pure l'Europa. No, perché in realtà ha detto che era Made in Brianza perché l'ha fatta fare a Merate, cioè vicino a casa vicino mia. Vicino a Vim City. Sì, vicino a Vimercate, vicino a casa mia, Merate, perché evidentemente l'aveva fatta stampare. A Merate stampare la scritta. Ma cosa c'è scritto? Merate sulla... No, però carino, Merate si potrebbe City, fare. Lanciamo. Esatto. Però Floris Brianza è andato a controllare il cartellino. Ecco, pronto, e Floris, non, la felpa non era Made in Italy, vabbè, insomma. Però si vabbè, è vestito. Dal maglioncino rosso, direi. Ma però perché parliamo sempre di queste... Ma è una noia mortale la sciarpa di Della Valle, il maglioncino di Renzi, prima c'era quello di Marchionne. Ma siamo fissati su queste... E poi sui talk show siamo fissati. Questi talk show che non fanno neanche argomenti più questi grandi ascolti, no? Eppure... Ma per forza! Ce ne sono tre parlano per delle felpe! Ce ne sono tre per sere, e in tre per sere... parlano di felpe. Allora, l'altro era Di Martedì, adesso passiamo a Ballarò. A Ballarò c'era stato Di Battista. E Grillo c'era, però... anche Giuliano Ferrari. Sì, che bello, che bello già. C'era Di Battista e Grillo però si è lamentato. Perché dove Di Battista ha detto che il Papa più o meno lo copia. Sì, e poi che c'era questo mi problema ha citato di il Papa parzialmente. Grillo non è stato assolutamente contento di come è stato trattato Di Battista. Ah, si è arrabbiato. E senti qua cosa ha detto. Ho visto poi quando ha finito un bellissimo intervento in un'atmosfera di studio vergognosa, e questi risolini, c'era questo container che ridacchiava, e questo piccolo giornalista e piccolo uomo messo lì da De Benedetti, che conduceva la trasmissione, ha parlato di scontrini, avete fatto più scontrini che politica, queste cose qua. Io avrei voluto dire a questo piccolissimo uomo messo lì da De Benedetti, se aveva in mano lo scontrino di De Benedetti quando ha preso 650 milioni dal Monte dei Paschi di Siena. Però sono cose che si pensano. Queste no, le figure retoriche di Grillo, potevo dirlo ma non l'ho detto. Beh, però non è che ci sia molto da ridere. No, e però era la conferenza stampa sul referendum contro l'euro e quindi ovviamente applaudire erano i suoi, e questa è stata la reazione di Grillo che questa settimana ha... si è ancora scagliato contro il Presidente della Repubblica. Ecco, va bene, ma quello fa politica, sono un eversore, però insomma... Sai che mi ha fatto commuovere Napolitano questa settimana? Ah, pensavo Grillo. No, Grillo, ma credo che non sarebbe neanche contento se facesse guarda, commuovere. Napolitano per l'opera degli ultimi anni ci fa commuovere quasi tutti i giorni. Ma sai perché mi ha fatto commuovere? Perché questa settimana... ha chiuso il suo intervento all'Accademia dei Lincei, peraltro... si parlava di rischi di antipolitica, insomma sarebbe un discorso troppo lungo, ma io mi sono commossa perché... Cioè c'è Grillo e poi mandi Napolitano. Sì, ma in realtà non voglio parlare di antipolitica, voglio parlare no, di un signore... ma no, voglio parlare di un signore molto anziano che ogni tanto... Ma molto, a me sembra giovane parecchio. Che però ogni tanto si concede di essere un signore anziano che si commuove e quindi così... Capisci? 9 anni di fatica gli abbiamo fatto, questo povero uomo. Così ha chiuso il suo intervento all'Accademia dei Lincei. Ho concluso, grazie per la pazienza e per l'attenzione, lasciatemi cogliere questa occasione per ringraziarvi molto più in generale per come mi avete accolto. È stato qualcosa, ne ha detto stasera qui con bellissime e generose parole il Presidente Maffei, che mi ha profondamente toccato, sorretto, arricchito. Grazie. Vabbè, non voglio mettermi a parlare di politica e di antipolitica. Si è commossa. L'antipolitica è diventata politica, quindi possiamo parlarne. Vabbè, però dai, lui è anziano e adesso secondo me si meriterebbe anche di andare giovane. Un po' in vacanza e di riposare un po', perché l'abbiamo fatto lavorare tanto e a quell'età lì, insomma, si meriterebbe anche di riposare un po'. Povero Presidente della Repubblica. Tra poco ci ritroviamo dopo il traffico del villaggio con i nostri aggiornamenti. Adesso lo dici anche tu, mi stai rubando. Sì, tutto. Ti sto rubando perché mi piace molto il traffico del villaggio e parliamo... no, quello non te lo concedo. Parliamo di che cosa? Parliamo di linguaggi nuovi, di mezzi che cambiano. Lo facciamo tra poco però, sai, dai. Sai che la televisione non ci sarà più nelle nostre case? Ma come non ci sarà più? No, ho il mobile apposta. Devo buttare il mobile? Devo cambiare se hai il braccio meccanico ci metti una bicicletta sopra. YouTube. Oh, dopo il traffico del villaggio, che ormai è l'espressione che ho rubato a Daniele Bellasio, parlavamo di mezzi che cambiano. Allora, intanto togliamoci subito il pensiero, è finito X Factor, basta. Sì, no, infatti ero sorpreso e stupito, non ne avevi ancora parlato. No, ho visto finito delle X Factor. Foto su Facebook. Sì, perché ci siamo andati a vedere. Però non avete l'asta. C'è chi ha fatto notare che non avete l'asta per fare il selfie da lontano. No, abbiamo chiesto all'amico più alto col braccio più lungo, che è Alessio Viola di TG24, di provare a farlo era lui. Era serissimo lui. Sì, lui era serissimo, anche perché io ho imparato a fare i selfie, io non sono capace di farmi i selfie. Questa settimana noi l'abbiamo sentita al sabato del villaggio, tu ancora non eri qui, ho intervistato Suor Cristina e mi ha detto ti insegno io, quindi mi sono fatta il mio primo selfie con Suor Cristina e l'ha scattato lei. O Matteo Renzi o Suor Cristina ti potevano insegnare a fare. Vabbè. Sì, esatto. Comunque X Factor è finita, la televisione X-Factor è morta, è finita, non esisterà più. Aspetta, intanto ci chiediamo l'anno prossimo chi saranno i giudici di X Factor. Perché? Ce lo chiediamo. Ma sai perché Morgan si è arrabbiato? Ha detto, caso strano, che va via. Sì, ha detto che va via, poi però è tornato, però è tornato. Al forum di Assago l'altra sera la gente era un filinino arrabbiata con lui. Ah, io sì. Sto con lui. Tu stai con lui, io sto con la gente. Che no, tutti... ma con la gente? La gente non esiste. Io sto con la gente, è come con il popolo della rete. Io sto con la gente. Sì. Ma scusa, non si può dire che la TV ti fa schifo e poi la fai. Allora, se la fai, basta, ti deve piacere. Comunque, senti qui, momento un po' zanzara, anche qui ci sono le parolacce, attenzione. Bip. Senza bip. Cosa ha detto Morgan e soprattutto quanto l'ha fischiato il forum di Assago? Si sente persino poco rispetto a quello che era in diretta da dentro il forum.

E come no? Eccoci qua. Editorialista di Repubblica, insegna la IULM, semiotica e teoria della creatività, anzi teorie. E dopo... Io voglio iscrivermi a teorie della creatività. Ma avrai fatto già la tesi, no? Mi prende in giro sempre sulla tesi. È sempre la stessa la mia tesi. Bene. È sempre la stessa la mia tesi. Laura... Dovevamo essere seri. Allora, in realtà è una notizia che a me ha fatto molto soffrire, perché io ero una grande fan di Mango. A me piaceva tanto, noi l'anno scorso sorridevamo tanto perché noi ce l'aspettavamo tra a i cantanti Re. Finalisti a e Sanremo. Io avevo fatto Volevo Mango. Sì, l'hashtag Volevo Mango, perché si diceva che dovesse essere a Sanremo, eravamo convinti. Tutti sanno cosa è successo questa settimana, la sua improvvisa scomparsa e la condivisione... Peraltro, sì, una cosa che veramente ci ha lasciato senza parole. La condivisione, prima su YouTube, di un video caricato da un sedicente fan, che era lì al concerto, e ha filmato il momento della morte di Mango, di fatto. Quando si è sentito male. Fino, insomma, poi ai durante soccorsi. La sua canzone. Sì, sì. Oro. E poi la condivisione delle testate online. E io ho sofferto molto e a botta calda ho twittato che questa cosa mi spiaceva molto, che secondo me non aggiungeva niente alla notizia, era una cosa che avrebbe fatto soffrire la sua famiglia. Daniele, tu non sei d'accordo con me e sarei curioso anche di sapere cosa ne pensa Stefano. Daniele? Ma dunque, il punto è questo, quando tu metti un video per calcare, per scavare nelle viscere del lettore, forse non stai svolgendo al meglio il tuo servizio diritto di cronaca. Per cui certe immagini legate all'omicidio di Ragusa, insomma, forse lì è veramente soltanto scavare nelle viscere del lettore e attirarne l'attenzione. Però qui obiettivamente era un cantante molto noto che mentre cantava la sua principale canzone si sentiva male. A mio modo di vedere, mi dispiace moltissimo, perché è chiaro che i familiari meritano il massimo rispetto e tutto il resto. A mio modo di vedere, però, in questo caso è diritto di cronaca. Se non lo è in questo caso, quando lo è? Stefano, tu cosa ne pensi? Io veramente sono molto combattuta. Appunto, io ho sofferto come se fosse una persona che conoscevo personalmente. Dove si ferma, secondo te? Secondo me si deve fermare prima. Non so, capisco il gesto del fan che lo posta su YouTube, perché... Insomma, quando si registra, quando si fanno questo, insomma, si prendono delle immagini, insomma, quando si hanno delle immagini così particolari, è chiaro che non si vede l'ora di usarle. Però sapendo come è andata a finire, non trattandosi soltanto di un malore, normalmente, insomma, si ritiene che la morte, no? Con questo anche tutte le scelte che vengono fatte, anche laddove non si tratta soltanto di una morte tutto sommato di tipo naturale, ma anche per le esecuzioni, no? Normalmente i giornali scelgono di interrompere la riproduzione delle esecuzioni fino a un certo punto. Lì è chiaro, è sempre stata una soglia, questo una volta valeva per le immagini dei cadaveri, no? Pasolini, Moro e via dicendo. Io penso che, sapendo appunto che poi non si è trattato di un malore, di un semplice malore, come fu nei casi, insomma, quando Berlusconi aveva avuto, diciamo, Bush, dei malori in pubblico, a quel punto doveva, secondo me, calare un silenzio più rispettoso. Però appunto sono tutte norme ormai scavalcate anche dal fatto che nessuno ha più l'esclusiva della distribuzione. Qualcuno ha citato anche Berlinguer, le immagini. Sì, no, ci sono stati famosissimi casi di uccisioni di cui abbiamo le immagini stampate nella memoria. Bisogna capire quando vederle. Per dire Kennedy, no? Per dire ancora, anche in quel caso, la sofferenza. Bisogna capire quando appunto si ferma o no il diritto di cronaca. Però quello che diceva Stefano, ovviamente, è giusto. Forse si ritorna, Stefano, anche a questo aspetto della percezione di un audience immediatamente verificata. Tu lo dicevi un po' anche prima, la rete ti dà la sensazione che poi si vada tutti nella stessa direzione, perché tu hai la percezione, non è detto che sia la reale audience, che il successo di una determinata cosa sia immediatamente quantificabile. Questo come cambia il modo di favorire la creatività, di partire con iniziative di creatività? Ah beh, saperlo, quella sarebbe un'equazione ovviamente vincente. Poi bisogna vedere anche che cosa si vince. Le persone che ormai i professionisti di internet che sanno come spingere un evento tramite social network, tramite tutte le attività che vediamo sulle nostre timeline, appunto, sanno come fare. E sempre però, secondo me, agiscono, diciamo, su dei meccanismi molto molto molto basici, no? Sulla insomma, colpire l'attenzione con lo stupore, con la cosa mai osata, e mi pare che poi il contenuto diventa molto molto scarso, no? Cioè, c'è una, come è avvenuto poi anche ai tempi di massima espansione della televisione, diciamo, un'attenzione al quantitativo, e che chiaramente fa tramontare, non dico il qualitativo, ma il significativo. Siamo tutti in coda all'autostrada che guardiamo l'incidente. Sì, ma dal Derero Natura in poi ci piace guardare. Oppala, siamo andati indietro. Ci piace stare sulla riva ci e guardare. Ci avrei fatto la tesi, peraltro, sul Derero Natura. Ma questa Natura. Cosa del... Allora, le tue prese in giro sulla mia tesi di laurea agli ascoltatori non interessano. Ma tu, lasciamo giudicare gli ascoltatori. Porto la mia tesi. Salutiamo di laurea Stefano. Ciao Stefano, grazie a Stefano Bartezzaghi per essere stato con noi. Grazie Stefano. A voi, ciao. Che meraviglia. Poi che meraviglia. C'erano anche delle cose carine. Abbiamo parlato anche di cose serie, anche sì. Dei soprammobili, dei centrini che si mettevano sulla TV e non si mettono più. La gondola, tu secondo me l'avevi a Vim City, lì nel Tinello, televisione e gondoletta. Non c'era la gondola. Senti, ma a me è piaciuto molto una persona che è venuta a Milano. Perché ti è piaciuto? Per due cose, perché ha mischiato due cose molto importanti: delle sane battaglie sui diritti civili e lo sport. Ha detto: fatemi però vedere una partita di basket. Dopo aver fatto una lezione alla Bocconi, sì. Ha detto: c'è per caso una partita di basket? È caduta la bottiglia. C'era la partita di basket dell'Olimpia Milano, ma prima Spike Lee. Cosa ha fatto? Spike Lee ha portato un DVD che si trova anche in rete, peraltro. Torniamo appunto alle riflessioni su quello che bisogna mostrare, su quello che non bisogna mostrare. Sono delle immagini che sì, si sono viste in rete, ma Spike Lee ha portato in Italia l'intero girato dell'arresto di Eric Garner lo scorso 17 luglio, l'uomo di origine afroamericana che è stato soffocato a morte durante l'arresto. Ecco, così ha raccontato quello che avrebbe mostrato Spike Lee. On this I have a DVD which is the entire 14 minute videotape. Sì, lui ha raccontato quello che ho qui, è il DVD dell'intero arresto e soffocamento a morte di Eric Garner, video della durata di 14 minuti, e spiegava: nemmeno in America l'hanno mai visto per intero, l'hanno potuto vedere su internet solo a spezzoni, me lo ha dato la persona che ha ripreso quanto accaduto, e anche qui non senza conseguenze. Twitter utilizzato per affermare i diritti umani, ne abbiamo parlato in tante occasioni, ne abbiamo parlato per tanti paesi, ne abbiamo parlato per Hong Kong, va un po' di moda Venezuela. Parlarne, un po' meno di moda parlarne sulla stampa e in giro. Anche perché poi le classifiche dei 10 video, dei 10 temi, poi c'è il cane travestito da ragno, ecco. Però ci sarebbe da riflettere su questo aspetto. Ci sono stati due hashtag molto diffusi questa settimana in rete: cancelletto I can't breathe, cioè io non posso più respirare, non respiro più, che era quello che lui diceva, e crying while white, cioè commettendo un crimine da bianco, ricalcando l'hashtag dying while black, cioè morendo da nero. Questo hashtag, che è andato in cima ai trending topic di Twitter, cioè in cima alle classifiche di Twitter, è stato lanciato da Jason Ross, che è uno sceneggiatore dello show del comico della notte bravissimo Jimmy Fallon. Aveva invitato tutti gli americani bianchi a dire: raccontate, twittate di quella volta che avete commesso un reato di qualsiasi tipo e l'avete fatta franca. Sì, ricordiamoci sempre quando parliamo di queste cose che almeno dagli Stati Uniti d'America tutte queste cose si sanno, si vedono, sui social network si discutono, il presidente degli Stati Uniti interviene dicendo che farà di tutto perché ciò non ricapiti più, cioè abbiamo quella valanga di informazioni che la rete è, da un paese libero come gli Stati Uniti d'America, arriva in tutto il mondo, da molti altri paesi non arriva nemmeno a volte la previsione del tempo in modo sincero e corretto, e anche per questo che è molto più facile sempre cavillare,